ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Può fare. Voci da un mondo possibile. Di Laura Bettini. Una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24 in questa domenica nella quale parleremo di Si può fare musica, musica. Noi viviamo tutti di suoni belli, di suoni brutti, di suoni naturali, di suoni artificiali. Dal primo vagito all'ultimo respiro siamo contornati da suoni, no? Che ci arrivano e ci sommergono a volte o a volte ci accompagnano. La musica ci accompagna in certi momenti della vita, per qualcuno è vita, per qualcun altro invece è semplicemente un accompagnamento la musica. Quando poi dopo appunto sono suoni organizzati, sono ritmo, sono armonia, ovviamente sono molto più piacevoli dei rumori e quindi li andiamo proprio a cercare, a scegliere. Di come fare musica, di che cosa è la musica per noi, degli effetti che ha su di noi, di quanto ci manca la musica magari in questo periodo, andremo a parlare in questa puntata. Parliamo anche della musica e degli effetti che può avere sugli animali, sui vegetali, questo poi nella seconda parte della trasmissione. Per me la musica è un po' tutto, accompagnamento, la radio sapete è parola e musica, se la sentiamo in sottofondo anche adesso, però sicuramente io non sono un'esperta e sicuramente non sono una suonatrice, non ne capisco niente di come si fa uno strumento, ne capisce invece molto il nostro primo ospite che fa strumenti dalle cose veramente più strane, tanto che hanno fondato un gruppo, lui e i suoi amici, che suona strumenti da oggetti riciclati, quanto di più vicino anche a questa trasmissione che vuole essere green, che vuole essere sostenibile, vuole essere amica dell'ambiente. Lui è Giovanni Sessa, buongiorno, mi fa molto piacere ritrovarti. Ciao Laura. E il gruppo anche sono i Manzella Quartet. Voi addirittura anni fa siete venuti qui in studio con noi per farci vedere cos'è un bidon basso, per esempio, che è il tuo strumento. Come avete cominciato a fare questi bellissimi strumenti che poi suonano benissimo, tra l'altro, tra poco ve li faccio sentire. Ma noi siamo proprio, come hai detto tu, due secondi fa, ci riteniamo lo simoro tra rumore e musica. Tutto è nato dai rumori, in effetti la nostra band è nata perché dovevamo andare al Festival Basket di Ferrara, ma con una band vera, quindi io dovevo suonare un basso elettrico, Alessandro doveva suonare una chitarra, ma gli altri componenti erano al mare, in Grecia per l'esattezza, e ci scrissero che non sarebbero venuti. E quindi ci trovammo in due e basta. E a me venne questa idea folle del bidone che suonava, e bidone, riloga delle tende e corda per stendere i panni. Incredibile, quindi così avete ottenuto il vostro strumento casalingo. Siamo partiti da lì, poi io ho costruito tutta una serie di strumenti, l'ultimo che tu non hai ancora visto, ma che è bellissimo, è un piatto da portata. Sai i piatti da portata, quelli degli anni 80, no? Quelli d'argentati che tu apri, c'è dentro lo stufato, no? Mm-hmm. Sono, diciamo, il piatto che tu alzi è il fondo della chitarra. E tutto il resto è, diciamo, il body della chitarra, a cui ho aggiunto un manico, e suona divinamente, suona meglio di una Fender. Quindi vabbè, adesso questo forse è esagerato, però suona bene. Adesso faccio sentire qualcosa di vostro. Voglio ricordare agli ascoltatori 824 0024 per le vostre esperienze musicali, non solo con strumenti così fatti in casa, ma proprio cos'è per voi la musica. Vi hanno costretto a studiarla? A me mi hanno costretto a studiarla a un certo punto, io non è che avessi tutta sta voglia. Invece ci sono persone come Giovanni che non vedono, no, che il momento di suonare, e addirittura addirittura si inventano lo strumento con il quale suonare. Sentiamo qualcosa di vostro, Manzella Quartet. Allora, qui Giovanni, che cosa stavate cantando intanto e che strumenti allora, abbiamo sentito? Esatto, allora stiamo cantando l'inno del riciclo, mi sembra ovvio. Gli strumenti che sono lì sono il bidone, poi c'è la famosa, qui lì c'è la tegliarra, quindi la chitarra fatta con la teglia delle lasagne. La tegliarra? Sì, la tegliarra, la chitarra fatta con la teglia delle lasagne, poi c'è una batteria fatta con i bidoni del gasolio, lo shaker fatto con la zuppa di orzo e farro della mamma di Simone, c'è Chiara che canta, quindi una voce femminile. Chiara è tua figlia, che è entrata nel gruppo da non molto, vero? Tra l'altro poi ce la fai salutare se è lì in zona magari. No, non c'è, è a casa. E niente, sì, Chiara è arrivata da poco insieme a Stefano ed insieme ad Andrea, perché tu devi sapere che ho rivoluzionato un po' il gruppo perché Alessandro ha pensato di fare una sua carriera solistica come autore e quindi... ci ha lasciati, stiamo gli auguriamo. Beh, tra l'altro tanto vi chiamate formazione instabile già di partenza, no? Manzella Quartet, esatto. Formazione instabile proprio perché ma siamo talmente instabili, come dicevi tu, la gente cerca la musica, noi non è che suoniamo, noi siamo proprio suonati e la cosa è completamente diversa. Tu tieni conto che c'è una filosofia nel gruppo che è questa: ognuno suona quello che non deve suonare. Tanto per darti un'idea, Stefano, che è uno dei nuovi, che però aveva già suonato con Manzella, quindi fa parte dell'entourage del gruppo, Stefano è diplomato al conservatorio in contrabbasso, quindi è bravissimo. Ovviamente suona la chitarra, mi sembra ovvio. Io, che ho sempre suonato da una vita la chitarra, suono il basso. E perché fate questa rivoluzione? Perché così ognuno, non avendo il proprio strumento, deve cercare di tirar fuori i suoni migliori da un qualcosa che non conosce. È un po' rischiosetto, come... non è un azzardo. No, allora, le capacità ci sono, questa gente, anche Andrea è diplomato al conservatorio in chitarra, le capacità ci sono e suona le percussioni, per dire. Quindi cosa succede? Succede che tu sei bravino, diciamo, a suonare e se hai uno strumento che non è propriamente il tuo, è normale che, no, che venga fuori, no? Che venga fuori bene. Mentre con un altro devi cercare di fare il meglio che puoi. E devo dire che questa filosofia funziona. Funziona perché ognuno è diventato bravissimo. Stefano è un bravissimo chitarrista adesso. Senti, però ti devo chiedere una cosa, ci sono canzoni che voi fate cover e ci sono testi che scrivete, sì, e sono specificamente dedicati a temi di sostenibilità ambientale, l'inno del riciclo, allora, mi ricordo la centrale nucleare, mi ricordo una serie di altri vostri titoli, e cavalli di battaglia, esatto. Sì. Lì chi è il compositore e l'anima del... Allora, sono sempre io, nel senso che questi pezzi posso dire che sono fatti dai Manzella, ma fondamentalmente a me vengono delle idee, le butto giù e diciamo che prende corpo la canzone. Dopodiché la mia idea, i miei accordi, la mia melodia va in sala di registrazione Manzella e a quel punto viene stravolto tutto, no? Siamo quattro matti, adesso cinque, e se piace di botto quello che ho fatto io, bene. Se non piace si prende la canzone che faccio e cominciamo ad arrangiarla e gli diamo un sapore nuovo e diventa poi canzone Manzella. Non è la musica il vostro primo lavoro, però mi pare di capire che da un punto di vista mentale vi impegna incredibilmente. Beh, ormai a me, per me, che sono diventato un felice pensionato da un anno e un mese, la musica comincia a essere uno dei miei lavori. Quindi hai raggiunto l'obiettivo, direi. Raggiunto l'obiettivo. Sì, ho raggiunto l'obiettivo, guarda. E per gli altri, sì, per gli altri lui per gli altri dipende, perché sia Stefano che Andrea insegnano a scuola musica. Quindi per voi, che la musica, adesso per chiudere e salutarci, la musica per voi cos'è, visto che ci stiamo domandando questo in questa puntata? Tutto. Per noi è tutto, per noi è tutto veramente, perché passiamo al di là del lavoro, passiamo tutta la nostra, il nostro tempo a non riesco a immaginare qualcosa senza la musica, perché poi tra l'altro io avendo questa creatività, quando vado in giro qualsiasi cosa che vedo mi viene in mente un motivo, hai capito? Quindi sento un uccellino cantare e dico però questa qui potrebbe essere una canzone, ecco, per dirti. Quindi non posso disgiungermi da quello che si chiama musica. Grazie Giovanni Sessa, in bocca al lupo ai Manzella Quartet per i vostri futuri concerti, speriamo di tornare presto tutti dal vivo e anche di potervi seguire. Un'importante che ti volevo dire, l'anno scorso abbiamo fatto una specie di joint venture con Natura Sì, e quindi abbiamo fatto tutta una serie per tutta l'Italia di concerti dedicati alla natura e al riciclo poi. Perfetto, e allora in bocca al lupo e alle nuove tournée. Abbiamo una piccola pausa, grazie Giovanni Sessa, una piccola pausa, 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, a tra poco. Può fare. Di meno casalingo, la musica di Madonna che abbiamo appena ascoltato, che ci porta al nostro prossimo ospite. Sappiamo tutti che le discoteche sono state tra le più colpite, diciamo, da questa crisi del Covid, poi sono entrate nell'occhio del ciclone per i contagi nel corso dell'estate e sicuramente hanno la necessità in questo periodo di reinventarsi. È quello che sta facendo il Gate a Milano. Andrea Scirocco ne è il gestore. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Buongiorno. Allora, reinventarsi ai tempi del Covid, quindi passare da discoteca a qualcos'altro. Che progetto avete messo in campo per preservare anche la musica e l'ascolto della musica? Sostanzialmente siamo da circa un mesetto provando a trovare un metodo, un modo per trovare, soprattutto per i nostri ospiti, i nostri dipendenti, insomma tutte le persone che lavorano. Beh, con certo, noi, perché c'è poi tutto il gruppo di lavoro, non c'è solo il locale e il gestore del locale, certo. Sì, in realtà siamo dietro tutti i tecnici, gli operatori, i service, insomma tutto lo staff nostro, che tra l'altro è molto giovane, siamo un team di ragazzi estremamente giovani. Stiamo provando proprio nell'ultimo mese a reinventarci, a provare insomma un mondo, perché la discoteca ormai è tempi del Covid, ormai dopo il 21 febbraio insomma abbiamo dovuto abbandonare questo mestiere, dato che comunque... Attenzione alla linea che ti stiamo un po' perdendo Andrea, non muoverti troppo. Eccoci qua. Avete dovuto necessariamente un po' reinventarvi, per quello che mi ricordo io c'è stata una parte di apertura all'aperto, no? Con un ristorante. Sì, abbiamo riconvertito un vecchio cortile abbandonato che era la nostra area fumatori, l'abbiamo trasformato in un cocktail bar. Quel cortile non era mai stato utilizzato negli ultimi 20 anni e abbiamo proprio stravolto sia a livello estetico ma soprattutto i contenuti questo cortile, che è diventato un cocktail bar e ristorante dove tutto lo staff ha potuto lavorare. Io in primis e i miei ragazzi abbiamo imparato un nuovo lavoro, perché fare eventisti o comunque concerti, manifestazioni di questo tipo è totalmente diverso rispetto ad avere un cocktail bar. Per me è stata un'esperienza bellissima che tra l'altro si è conclusa proprio ieri. E adesso stiamo lavorando per lavorate per l'inverno, giustamente. Per l'inverno e per la zona interna. E ci siamo inventati ispirandoci un po' da un format presente Ibiza, siamo proprio ispirati a una location che si chiama Lio, non so se conoscete, questo nuovo modello di business per far sì che le persone possano in sicurezza vedere uno spettacolo. E questo modello unisce la ristorazione all'arte della danza, dove le persone possono cenare sedute in sicurezza con le dovute distanze, che a breve sapremo esattamente quali saranno, perché siamo un po' tutti in balia di questo decreto. Sì, già stanotte sembra, no, che le carte sono cambiate rispetto a quello che ci potevamo dire di ieri, e quindi chiaramente le cose bisogna seguirle giorno per giorno. Giorno per giorno si mutano, si sviluppano, e noi abbiamo cercato di fare un qualcosa di diverso, soprattutto perché in Italia ancora non questa tipologia, questo modello ancora non esiste, e soprattutto anche se dovessero dare la chiusura alle 23 a mezzanotte, per noi il procedimento di muta, diciamo, del locale continua, nel senso che facendo una cena spettacolo, perché adesso tanti locali stanno riadattando come cene cantate, noi saremo la prima location che aprirà come cena spettacolo. Cosa consiste? Consiste nel fatto che i clienti con le dovute distanze di sicurezza possono accedere all'interno della location e mangiare gustandosi uno spettacolo. I giorni di apertura saranno previsti per il weekend, sabato e domenica, e andremo proprio a sviluppare un prodotto che è molto interessante. Perché? Perché è uno spettacolo costruito dal nostro team, da coreografi, costumisti, scenografi, insomma una cosa veramente particolare e diversa che può intrattenere il pubblico e far sì che le persone possano comunque in qualche modo uscire di casa. Adesso si sente molto... E quindi dare, come dire, adesso se interrompo, ma perché mi si sa il tempo non corre, dicevo, e quindi questo dà la possibilità di tenere aperto il locale, di appunto intrattenere le persone, far lavorare tutti quelli che lavorano con voi, che non è cosa da poco, insomma, alla fin fine. Di quante persone stiamo parlando? Parliamo di circa 12-13 persone coinvolte. Noi comunque abbiamo dovuto assumere o lavorare con altri fornitori, soprattutto sia sul discorso, diciamo, di beverage, ma soprattutto introdurre il food, che per noi è un mondo totalmente nuovo. Ci stiamo appoggiando a un catering che ci sta dando una mano in tutta la parte di consulenza. Insomma, è il bello, diciamo, di questo reinventarsi da Gheta Bisù, che sarà il nuovo nome della location. Quindi cambia anche nome, cambia volto, lo stiamo proprio ristrutturando a 360 gradi, e l'apertura è prevista per venerdì. Infatti stiamo quindi ci state spendendo anche del denaro, però devo dire la verità, c'è una grande sensibilizzazione da parte delle persone, nel senso che professioni, abbiamo coinvolto parecchi professionisti nel progetto che si stanno venendo incontro, soprattutto sul discorso proprio economico, perché adesso c'è bisogno, insomma, di starsi tutti un po' più vicini, un po' pensare un po' meno agli standard vecchi economici che c'erano presenti, e lanciarsi in un progetto così è una cosa ambiziosa, insomma, per tanti professionisti. In ultima battuta, si salva anche la musica in questa maniera. La musica sarà diverso, forse sentita in questo modo, o pensate che comunque sarà un po' come prima, diciamo così? A parte che prima, che cosa vuol dire comunque? L'abbiamo perso sul finale. No. Sente, adesso sì. Dai. La musica ormai è un argomento un po' particolare, nel senso che tante persone erano abituate ad ascoltare, soprattutto nell'ultimo periodo, erano abituate molto a cantare. In questa quarantena abbiamo visto tanti video su YouTube, tante cose dove persone sono diventate proprio protagoniste. Ecco, noi vogliamo provare un po' a fargli rivedere delle emozioni che insomma abbiamo un po' perso, e il fatto di poter fargli vedere uno spettacolo, fargli vedere qualcosa di particolare cenando in sicurezza, senza diciamo troppo, adesso c'è questa problematica qua che i locali sono visti un po' come luogo del contagio, noi trasformando un ristorante, facendoli vedere uno spettacolo, potrebbe essere un modo per farli emozionare, una cosa che a livello sociale manca parecchio. Insomma, Andrea Scirocco, grazie molte, davvero in bocca al lupo a tutti voi che state lavorando a questo progetto, e alla prossima occasione. Noi abbiamo GR24, torniamo subito dopo, come sempre ci sarà Marco Malvaldi, continuiamo a parlare di musica con voi e con lui. Si può fare. Si può fare. Musica, vivi di musica, è un'onda di energia che porta con sé. Respiri musica, vibra nell'anima, brucia nell'aria e scorre dentro di te. Arriva come una scarica, è adrenalina pura. Si può fare musica, questo ci stiamo domandando nella puntata di oggi di Si può fare, ed è in collegamento con noi come ogni domenica Marco Malvaldi. Buongiorno Marco. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti. Senti, tu scrivi tanto, però ascolti musica mentre scrivi, che cos'è la musica per te nelle tue giornate? No, io la musica mentre scrivo non la ascolto, se ascolto musica faccio solo quello, addirittura non l'ascolto in macchina, perché altrimenti rischio di distrarmi, chiudo gli occhi su una melodia straordinaria e quando li riapro ho abbracciato un paracarro. E la musica è un qualcosa che ti pervade i sensi. Leibniz diceva che ascoltare musica è il piacere di contare senza la consapevolezza di farlo. È una cosa bellissima proprio per questo, perché quando ascolti musica tutto torna, le cose hanno una loro logica anche se tu non sai perché, e è una cosa che ho capito quando per la prima volta mi hanno fatto notare che il modo in cui finisce un brano musicale non ti sorprende mai, alla fine l'ultima nota deve essere quella, perché altrimenti ti darebbe noia la cosa, e molta musica è fatta per dare noia, però funziona così. Sì, è un po' come certi film, no? Certi film tu te lo vuoi quel finale, poi quando te lo cambiano, qualcuno fa le sperimentazioni, ovviamente il film che non finisce bene, però ti lascia sì, sempre un po' quella maleducazione. Sì. Senti, tu sei un matematico di formazione, però la musica e la matematica vanno molto a braccetto, direi. Assolutamente, ci sono stati fra l'altro grandissimi musicisti che sono stati anche valenti matematici e viceversa, perché è una questione di rapporti, da Pitagora in poi, che faceva notare come gli intervalli armoniosi avessero un rapporto preciso fra le lunghezze della corda che li produceva. E poi è una questione di ritmica, è una questione di scrittura simbolica. Musica e matematica sono veramente due linguaggi complementari che però partono dalla stessa base. Bisogna interagire con il cervello umano in maniera logica, in maniera precisa, in maniera razionale. Poi però si producono emozioni. Ci sono tantissimi matematici che hanno studiato la musica di Bach e la musica di altre persone. E poi c'è un modo anche, diciamo così, scientifico di fare musica male, è stata fatta sia da vari compositori sia da varie orchestre. Prima sentivo Giovanni Sessa parlare di strumenti e di strumenti suonati in maniera curiosa. Beh, c'è un'orchestra, la Portsmouth Orchestra, che ha una regola: chi suona lo strumento non lo deve suonare da più di un mese. Ne risultano delle cose allucinanti, perché tu riconosci la melodia perché gli strumentisti vanno a tempo, ma l'effetto è comico, perché sembra di cioè è un qualcosa che i non musicisti non riuscirebbero a ottenere perché non andrebbero a tempo, ma questi stonano in maniera colossale, quindi ne viene fuori una cosa umoristica. Non possiamo mandarla per radio perché sennò le persone cambierebbero probabilmente. Beh, però ci hai fatto venire perché voglia, sì. Quindi se la troviamo me la facciamo sentire, perché Portsmouth Orchestra, Also Sprach die Zarathustra, e uno si spacca dalle risate. Bene, vabbè, adesso la cerchiamo, vediamo se riusciamo a sentirla, perché adesso ci hai fatto venire curiosità. Ma allora significa che chi non è buono in matematica non è buono in musica e viceversa? Ma no, perché in realtà ci sono tanti tipi di matematica e spesso chi non è buono in una branca della matematica è buono in un'altra, e chi è buono in una branca della musica spesso non è buono in un'altra. Ci sono dei grandissimi strumentisti che sono dei direttori d'orchestra raccapriccianti e viceversa. Si tratta di trovare la propria specialità. Ci sono delle regole, chiaramente. Si parte tutti insieme e si finisce tutti insieme, diceva un direttore d'orchestra, uno dei pochi con cui ho avuto io il piacere e lui il dispiacere di lavorare, perché è perché tu è cosa facevi? Cantavi, suonavi? Io cantavo, ho fatto il conservatorio, canto lirico, poi ho tentato la carriera di cantante lirico, mi hanno spiegato che c'era quella cosa nota come talento che a me non era stata data, perlomeno nel campo della musica, e quindi sono un ascoltatore felice in questo momento. Però l'anno scorso ho fatto la voce recitante in Pierino e il Lupo, e chiaramente il primo consiglio del direttore d'orchestra è stato: potete fare tutto quello che volete, l'importante è che si parta tutti insieme e che si finisca tutti insieme, per il resto possono succedere tante cose. Senti cosa abbiamo trovato, cosa ha trovato Andrea Roccabella. È terrificante. Oddio. È terrificante, ma tu l'avevi già sentita, questo? Io l'ho sentita adesso per, sì, la prima volta, mi cado dalla sedia. La cosa bella è questa, che però è la riconosciamo, cioè, esatto. Esatto, e quello è il talento in musica. Io ho capito di non avere talento quando il direttore di coro mi ha detto: ho dei problemi con te, Marco, perché non ti riconosco, non capisco chi sei quando entri, e quella è stata una tombale. Ho detto: ok, va bene. Va bene, allora dici, mi trovo un'altra strada, va, che mi faccio riconoscere con le lettere invece che col canto. Allora, tra pochissimo torniamo con un grande ospite e tu lo presenterai, ti do questo onore e questo onore. Grazie. Sentiamo la viabilità, a tra poco. Si può fare. Può fare. Una musica può fare cantare li li li la la la maggiore. Una musica può fare per le vostre telefonate, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Marco, io cedo subito a te il microfono. Ti ringrazio, Laura, e abbiamo con noi un ospite eccezionale. Per introdurlo uso la formula di rito: dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio. Buongiorno, maestro. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. È un piacere averla con noi, maestro. Una lunghissima carriera di successi anche sul palco di Sanremo, come ci ha ricordato Marco, e noi l'abbiamo coinvolta però su un aspetto un po' particolare, no Malvaldi? Assolutamente, perché la musica che ha sentito, Una musica può fare di Max Gazzè, è al centro di uno dei progetti che ha curato anche lei, cioè il fatto che la musica può stimolare e cambiare la crescita degli organismi viventi. E per organismi viventi non intendiamo solo gli esseri umani, ma anche le piante, gli alberi e quant'altro. È così? Assolutamente sì. Poi tra l'altro su quel palco a Sanremo, quando Max ha cantato questa canzone, c'ero io. Quindi mi sembra quasi un segno del destino. Che vi riunite, che modo, sì, che ci riuniamo, e soprattutto aver lavorato a questo brano dove istintivamente, ecco, in maniera istintiva percepivamo già il valore di una serie di possibilità che la musica ha nel suo linguaggio. Guardi, sicuramente i dati che sono in possesso io sulla sperimentazione delle piante e anche proprio dei frutti è importante, anche di semi tra l'altro, ma vorrei sottolineare che già tanti scienziati nel mondo stavano studiando gli effetti importanti della musicoterapia. C'è un signore che si chiama Daniel Willingham, è un scienziato americano che su degli studenti di una scuola elementare tedesca ha usato proprio la capacità formativa della pratica musicale, e i bambini che avevano frequentato i corsi di musica hanno mostrato a distanza di un anno un incremento del 90% dell'intelligenza logica e verbale, un miglioramento della capacità di lettura, la riduzione del 73% dei comportamenti scorretti e delle alterazioni del comportamento sociale. E che cosa dire? Mi sembra che la musica sia effettivamente... Che cosa dire, maestro? Sai che cosa dire? Che ne facciamo troppo poca, se questi sono i suoi benefici effetti. Esattamente. Guardi, tra l'altro, nel 2013 proprio ci fu il risultato di un biomonitoraggio del Ministero della Salute sulle condizioni degli inquinanti a Taranto, e fu fatta proprio su dei bambini, i dati sono stati anche dibattuti perché non all'epoca non diciamo ritenuti proprio completamente attendibili, però per quanto non attendibili parlavano solo di disturbi del neurosviluppo, di riduzioni del quoziente intellettivo, delle alterazioni del comportamento sociale. Allora le volevo dire che ci è sembrato giusto, una volta a conoscenza di queste capacità, cercare di portare a Taranto, proprio laddove c'è questo deficit e dove non è in nostro possesso, parlare di delocalizzazioni di grandi industrie o di altri elementi inquinanti, di portare proprio questo beneficio. E eravamo stati anche finanziati per fare questo in una scuola elementare, tra l'altro con un supporto di ricerca di atenei importanti come il Politecnico di Torino e di Zurigo. Purtroppo la pandemia ha fermato il progetto, ha fermato tutto, quindi non abbiamo potuto fare maestro, questo. Maestro, ora lei ha parlato di esseri umani, però la cosa che a me è incuriosito è il fatto che la musica, certi tipi di musica, sembrano proprio rappresentare una specie di massaggio per le piante, per i vegetali, e questo lei ha collaborato anche con Stefano Mancuso per certo. Questa cosa ci può raccontare un po'? Guardi, lei ha usato la parola giusta, massaggio. Noi abbiamo una capacità di percepire, per esempio il mare agitato, lo possiamo vedere con gli occhi, possiamo accorgerci che quella massa è in una è, diciamo, non è calma, e mentre noi su come l'aria si conforma intorno a noi, perché sono comunque molecole che si muovono, noi pensiamo sia impercettibile il loro movimento, ma in realtà gli organismi viventi riescono assolutamente a sentire questo movimento, a tradurlo in una forma di benessere, laddove questo è in maniera naturale. Quando dico naturale intendo in pace, ovviamente. E con Mancuso abbiamo fatto qualche prova in laboratorio, sono solo degli indizi. Abbiamo visto addirittura che i semi che erano stati sottoposti a delle vibrazioni, io le chiamo coerenti, nel senso che quando la musica risponde ad una serie di principi di coerenza con tutto il sistema che lo circonda, quindi anche con i principi della fisica e del movimento dei suoi armonici, la musica riesce a dare proprio questa condizione dell'aria, riesce a muovere le molecole in una maniera tale che le piante lo percepiscono, anche gli animali lo percepiscono più facilmente, provano benessere, come le mucche che praticamente producevano più latte con alcuni tipi di musica, e erroneamente si fece la distinzione di stili, invece era proprio un problema di polifonia. Il modo in cui le note si incontrano tra loro sono capaci di generare un'aria, diciamo, perturbata oppure salubre e diciamo in pace. Questo quindi c'è, infatti questo l'avrei chiesto senz'altro, quindi non è una questione di stili, ma è una questione di, come che ha detto, una polifonia armonica, ecco, non lo so. Esattamente, io la chiamo armonico naturale, perché è rispondente a una serie di principi. Tra l'altro, ma cos'è un armonico naturale? Adesso ci faccio un esempio per me che non me ne capisco. Ha ragione. Se noi mettiamo in un campo, diciamo, di silenzio, pensiamo al silenzio e pensiamo all'intromissione di due note che suonano contemporaneamente, queste due note genereranno attraverso i loro armonici, che sono come dei satelliti che ci sono intorno alle note, genereranno un campo. Questo campo tenderà ad una sua unione. L'intromissione di una terza nota deve rispettare le possibilità che questo campo ha generato. Ecco da dove nascono anche le leggi della musica. Io pensavo che le leggi fossero estetiche della polifonia, invece no, sono solo state la capacità dell'uomo di percepire, in un periodo nel quale il silenzio probabilmente era una cosa straordinaria, quindi c'era tutto il tempo di osservare che cosa facevano i cantori, che sono tra l'altro strumenti naturali, umani, non è schiacciare un tasto e mettere insieme delle note. Come lei può vedere, è facile sbagliare mettendo la mano, no? E quindi comunque il suono viene procurato, e i cantori dovevano essere facilitati nel loro percorso, e quindi è lì che nascono le leggi della polifonia, perché i procedimenti risultavano armonici e naturali, perché rispondevano a concetti naturali. Non so se è stato chiaro. È stato chiarissimo, e a me viene una domanda da musicista, perché io so che c'è un musicista che è noto per essere, diciamo, vicino all'apice della perfezione nella composizione, e questo compositore, che è Wolfgang Amadeus Mozart, se non ho capito male, è proprio uno di quelli che ha una, come dire, un effetto maggiore sulle... Assolutamente, è sicuramente il maggiore indiziato, no? Si chiama effetto Mozart, è il maggiore indiziato di questo tipo di reattività che fa scaturire nelle piante, negli animali. E infatti c'è stato uno studio, sempre per rivelarne la coerenza, c'è stato uno studio fatto in Canada attraverso le figure frattali, quindi uno studio matematico della polifonia di Mozart, e ha rivelato specifiche qualità. Devo dire, anche Beethoven ha mostrato un particolare, diciamo, valore, ma mi sembra abbastanza logico, ovvio, forse addirittura per uno come me che ha studiato composizione, Beethoven è sicuramente stato un punto di riferimento importante. Mozart ci sembrava lontano anche dallo stile, dal mondo, però alla fine, come vediamo, non c'entra nulla lo stile, c'entra proprio il modo in cui si organizzano le polifonie. Certo, prego, faccia la domanda. Posso dire che alla fin fine posso, se il mio vicino coltiva i pomodori, posso dirgli di smetterla di ascoltare la musica punk o la dodecafonia, e se li vuole belli, rossi Mozart e maturi, così conviene a tutti e due. Se vogliamo far una battuta, sì, io sono d'accordo sulla faccenda della dodecafonia, ma semplicemente perché viene negata la funzione della radice. Volevo dire, quel processo che ho spiegato prima, che le due note le due note generano un campo e quindi che le altre si attengono, perché nella dodecafonia è esattamente la negazione di questo concetto. Ogni nota ha diritto alla sua esistenza in quanto radice, quindi è ammesso tutto. Questo non è possibile, è il concetto di famiglia che gerarchicamente governa l'universo che viene negato. Si può evolvere, sicuramente. Però sa cosa le dico, adesso dobbiamo tra poco chiudere questo collegamento, però la dissezione di Mozart e di Beethoven, io capisco che sia appassionante anche per persone anche come Marco Malvaldi che ne capiscono anche di matematica, così. Per noi profani l'ascolto è la parte, poi no, sapere che c'è il frattale o non c'è, a noi piace ascoltarla poi alla fine, è quello che conta sulla vita quotidiana di tutti noi. Guardi, le dico di sì. Dal punto di vista del filtraggio attraverso le nostre orecchie, il cuore e il cervello, sicuramente è così. È chiaro che anche una musica che non rispetta questi principi, ma che ha a che fare con il nostro vissuto, quindi con la possibilità di identificarla con un momento bello o brutto della nostra vita, sicuramente ha questo grande valore e questo ci porta benefici. Ma per le mucche non è così. Perché le mucche non possono, allora possiamo stabilire che abbiamo due segnali contemporanei, uno che parla con le nostre cellule e un altro che parla con il nostro cervello, sperando che questi due segnali convergano, avremo un effetto straordinario, altrimenti uno rischia quasi di annullare l'altro o di potenziarlo. Non so se è chiaro il concetto. Chiarissimo, chiarissimo. Io la ringrazio molto, maestro, per essere stato con noi oggi. Marco. Io ho appena sentito dire che c'è una giustificazione scientifica al fatto che la dodecafonia mi faccia sentire male, quindi io sono contento. Ecco. Posso spacciare questa cosa e dire, me l'ha detto un'autorità come Peppe Vessicchio, quindi posso essere solo contento. Grazie. Guardi, maestro. Io non sono un'autorità, ma le posso dire che sono stato un appassionato di dodecafonia, quindi vuol dire, no, ci sono passato attraverso. Adesso mi rendo conto che il valore naturale è un'altra cosa, quello è un valore intellettuale che non va disconosciuto, ma resta tale. Grazie ancora, buona giornata. Buona giornata a voi. Abbiamo una piccola pausa, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Fare. Shout to the top. Michele Michelazzo mi guarda dall'altra parte del vetro ricordandomi di disannunciarli. Marco Malvaldi, a Beethoven e Sinatra preferisco l'insalata, mi è venuto in mente prima, così non lo so, a te se ti è venuto in mente. A Vivaldi, l'uva passa che mi dà più calorie. Vabbè, detto questo, che non è il soggetto della nostra trasmissione, l'insalata e l'uva passa, stiamo parlando di musica, si può fare musica anche nei templi della musica, ad esempio la Scala di Milano. Paolo Besana, cura i rapporti con la stampa del Teatro La Scala, buongiorno Paolo. Buongiorno. Buongiorno. È ovviamente necessario, importante, per, non solo per gli amanti della lirica, ma anche proprio come segnale di vita di un paese. La Scala aperta e la Scala chiusa possono fare la differenza, no? Quindi lo sforzo è massimo per tenerla aperta, direi. Ma sicuramente. Noi abbiamo avuto un lungo periodo di lockdown dal abbiamo chiuso il 23 febbraio e poi abbiamo voluto già prima dell'estate fare dei piccoli concerti così un po' per ritestare lo spazio e anche per testare il pubblico. Poi da settembre abbiamo cominciato a fare spettacoli in maniera regolare, continuativa. Adesso abbiamo spettacolo quasi tutte le sere. Oggi abbiamo due spettacoli, esatto, un concerto la mattina e uno la sera, la Filarmonica della Scala. Ecco, quindi, perché questo è importante, si diceva prima del punto che Vivaldi, che l'uva passa da quello di Vivaldi, però qui si parla di posti di lavoro, di tanti posti di lavoro, c'è una responsabilità notevole. Allora, la Scala ovviamente è, diciamo, una media azienda, noi abbiamo più di 800 dipendenti e poi c'è un certo numero di persone che lavorano con noi a contratto su progetti. In più bisogna anche considerare l'impatto sulla città. Tenere la Scala aperta vuol dire avere un segnale di vita in centro nella città di Milano. Questo ha un impatto sui bar, sui ristoranti, in generale su una specie di ecosistema di attività che c'è nel centro di Milano e che ha nella Scala un suo punto di riferimento, senza dubbio. Beh, un punto di riferimento appunto anche per l'estero, no? Perché tanti vengono per studiare, molti passano per proprio frequentare il teatro, quindi teatro aperto, teatro che funziona, teatro magari con pochi spettatori, quanto riuscite ad accoglierne rispetto alla norma? Allora, noi abbiamo una capienza di 2000 posti e adesso al momento abbiamo circa 700 posti in sala. Naturalmente è un'attività che, messa in questi termini, è antieconomica, è ovviamente in perdita, però sarebbe una perdita maggiore chiudere tutto. Lei parlava degli stranieri, sicuramente la Scala è tra virgolette uno dei motivi per visitare Milano. È uno dei motivi per visitare Milano. Ricordiamo anche che la Scala ha un'accademia, ha un'importante accademia con tanti studenti, vero? Che ha più di 1500 studenti e che attira da tutto il mondo ragazzi che vogliono imparare a suonare uno strumento, a cantare, ma in generale tutte le arti dello spettacolo. Però se siete in perdita, scusami Marco, ti lascio subito la parola, come si sostiene questa, no? Questa attività con così pochi visitatori, così pochi spettatori possibili ogni volta? Io devo dire che abbiamo avuto per esempio dai nostri sponsor una risposta molto, molto buona. Diciamo che il Teatro alla Scala è un teatro il cui equilibrio economico si è sempre fondato per un terzo sui contributi statali, insomma detto grossolanamente, però un terzo di contributi statali, un terzo di sponsorizzazioni e un terzo di pubblico. Noi adesso abbiamo avuto una contrazione molto forte del pubblico, d'altra parte c'è stata ovviamente anche nell'ultimo periodo una contrazione dei costi, per cui noi adesso ce la facciamo, è chiaro che non si può andare così avanti così all'infinito, noi abbiamo bisogno di ritrovare un modello economico sostenibile. Quello presente è un modello economico, cioè di una emergenza. Situazione che noi possiamo tenere per un po', ma è chiaro che non possiamo andare così all'infinito. Ecco, Besana, però una cosa mi chiedevo, con così pochi spettatori, con spettatori distanziati, secondo lei c'è anche un effetto su come il pubblico reagisce alla musica, il fatto di essere più lontani e quindi che la partecipazione un po' si abbassi, ha un qualche effetto secondo lei sul pubblico oppure la cosa è trascurabile oppure addirittura gradevole? Allora, io ho sempre amato i teatri pieni, mi è sempre sembrato che si creasse un'atmosfera di ascolto collettivo più forte, così come ho sempre amato il teatro musicale come teatro musicale, quindi con le scene, i costumi che per ora noi non abbiamo ancora potuto mettere in opera. D'altra parte devo dire che io penso che in questo momento il pubblico senta il fatto di andare a teatro, in particolare di venire alla Scala, come un fatto importante della loro vita. È anche un'affermazione contro un'affermazione di sé e della propria capacità di vivere pienamente la vita contro la situazione che stiamo vivendo. E quindi c'è una partecipazione, una voglia di esserci ancora più forte. Quindi è un modo, diciamo, per cercare una normalità nella normalità, secondo te? Sì, sì, devo dire... Cioè, tengo la mia abitudine di andare alla Scala. Tengo la mia abitudine e da questo punto di vista noi stiamo facendo uno sforzo importante per garantire assoluta sicurezza a chi viene. Le nostre norme sono forse un po' draconiane. Perché cosa avete messo? Taglio il bagno, delle mani per chi non porta il bagno nell'alcol. No, però diciamo che noi oltre alla misurazione della temperatura all'ingresso abbiamo di solito il pubblico entrava e si incontrava nel foyer prima di raggiungere i posti. Avete adesso tolto noi abbiamo il foyer? Fatto praticamente sì, perché abbiamo fatto delle corsie con delle cordonature in modo che chi entra invece di socializzare nel foyer si è indirizzato immediatamente al suo posto, dove poi deve tenere la mascherina per tutto lo spettacolo e diciamo che il nostro distanziamento è un distanziamento abbastanza consistente. Questo da un lato è punitivo per chi ovviamente andava al teatro anche per chiacchierare, per incontrare persone, eccetera. D'altra parte è fondamentale perché in tutto questo il primo punto di cui tenere conto deve essere sempre la sicurezza. Sarebbe tra l'altro ancora più disastroso dover chiudere dopo, quindi è meglio averne paura che buscarne, come si dice, no Marco, anche in Toscana. Assolutamente, io credo, anzi io schiererei sui palchi dei cecchini, per cui se qualcuno si toglie la mascherina dovrebbe essere subito bersagliato. Non credo si possa fare. Noi però siamo molto contenti del nostro pubblico, cioè il nostro pubblico è molto molto responsabile. Di mascherine tolte o abbassate se ne vedono veramente poche. Beh, la consapevolezza è il primo passo sicuramente anche per poter continuare a fare spettacolo, perché poi questo è la questione, no? Questo è quello che vogliamo. Noi adesso abbiamo una routine di spettacoli abbastanza fitta, appunto. Due filarmoniche oggi, domani c'è di nuovo Aida che ha avuto molto successo e nei prossimi giorni tornano anche i concerti, altri concerti con Zubin Mehta, e noi vogliamo anche comunque presentare almeno parte della prossima stagione. È chiaro che tutti navighiamo un po' a vista, però nella misura del possibile bisogna anche dare dei segni di progettualità, e quindi noi stiamo per presentare il prossimo 7 dicembre e i prossimi spettacoli. Paolo, l'ultima ecco. Curiosità, no, prego Marco, allora l'ultima a te. L'ultima a me, perché ho visto che alcuni di questi spettacoli sono un po' diversi. Per esempio, ho visto che suonerà o ha suonato Myung Woon Chun, che noi conosciamo come direttore d'orchestra, però come pianista in realtà, se non sbaglio. Quindi c'è anche un po' un rimescolamento. Un cambio, un rimescolamento. Ecco. Guarda, Myung Woon Chun in realtà nasce come pianista. Lui ha fatto ha anche vinto il secondo premio al Tchaikovsky, quindi era un pianista professionale e lui pensava di fare questo nella vita. Poi le cose sono andate in un altro modo, però ogni tanto lui torna al pianoforte e appunto oggi alle 10 e poi alle 20 lui fa il triplo concerto di Beethoven con Sergei Kachatrian e Enrico Dindo al violoncello, e sì, sicuramente è una bella occasione di ritrovarlo anche in questa veste che adesso non è più la sua veste consueta. Molto bene, allora buona stagione, cosa si dice? Non lo so, a tutti. Si dice toi toi toi, okay. Da noi si dice toi toi toi. Va bene, toi toi toi, Paolo Besana, Teatro La Scala, adesso abbiamo una piccola pausa, viabilità. Si può fare. Si può fare. fare. Dedicata alla musica, potevamo dimenticare Eddie Van Halen, chitarrista e fondatore di Van Halen, che ci ha lasciato questa settimana. Marco, a me piacevano. Io che devo dire? A me piacevano tantissimo. Poi, appunto, queste canzoni che ti fanno, appunto, ti fanno venire voglia di saltare dalla sedia e di metterti a ballare. Poi, tipicamente, quando lo fai, entra qualcuno nella stanza e tu tenti di dissimulare, in ogni modo fingendo improbabili stretching. Certo, certo, io non stavo saltando, mi stavo allungando perché stavo stata troppo al computer. E soprattutto quando entrano i bambini che ti guardano come per dire la mamma è impazzita. Esattamente, esattamente. Sono momenti veramente belli e che appunto generano quelle risate spontanee che, di cui abbiamo tanto tanto bisogno. Tra l'altro faremo un Si può far ridere, perché secondo me è necessario, insomma, no, ridere ogni tanto insieme, anche senza motivo serio. Assolutamente. Senti, vorrei subito, a proposito di risate, presentare il nostro ospite. È Savino Cesario, chitarrista, suona nella Silvano Belfiore Band, che lavora tra l'altro con Maurizio Crozza. Quindi buongiorno. Buongiorno a voi. Musica per te, vita e risata anche. Fondamentalmente sì. Ho apprezzato moltissimo comunque l'attesa con Van Halen, che ha cambiato la storia della chitarra moderna. Però ti sei perso l'orchestra probabilmente di, lo leggo proprio come si scrive, Portsmouth. Con TH in fondo, lo dico perché ce l'hanno chiesto in tanti, è piaciuta da matti, mi spiace, è dissonante st'orchestra, ma ha avuto un successo straordinario. No, infatti, tra l'altro ho apprezzato anche Michelazzo che mi ha ricordato di disannunciare, che è fondamentale, grazie. Ma Radio 24 non è che siamo proprio abituati noi a disannunciare dischi, neanche a presentarli, figuriamoci a disannunciare. Vabbè, guarda, tu vai in macchina, senti un pezzo bellissimo, quando finisci io spero che adesso mi dicano il titolo, e poi no, vanno avanti. Io invece me la prendo perché dall'altra parte dico, sento una bellissima intervista e dico vorrei sapere chi è quello che parla, e si fa spesso l'errore di non dire si saluta, grazie per essere stato con noi, e non si dice chi c'era dall'altra parte del microfono, così tu rimani a bocca asciutta e dici era bravo ma chissà chi era. No, bisognerebbe metterlo come regola la radiofonica. Tra l'altro io sono un po' vostro collega perché per un po' di anni ho lavorato a Radio 2. Bisogna sempre disannunciare, alla fine, sempre. O l'ospite o la canzone, sarebbe una bella regola. Comunque ritorniamo alla musica. In realtà tu sei partito dal cabaret, quindi se vogliamo tornare indietro nel tempo, tu sei partito dal cabaret, poi sei passato alla musica, hai fatto un po' tutte le fasi, hai fatto la radio, cosa ti manca? Sì. Il balletto? Io fondamentalmente avrei fatto il ballerino, ma il fisico mi ha abbandonato, mi sono buttato sulla comicità e sulla musica. Ho avuto la fortuna di lavorare con i comici più bravi ancora adesso, insomma la fortuna di continuare a collaborare con Maurizio Crozza, Joey Dix, ma in precedenza Iannacci, Paolo Rossi, Riondino, Vergassola, ho suonato un po' con tutti. Sì. Posso dirti una cosa, perché tu hai usato la parola lavoro, ma ti dico una cosa, a Sant'Arcangelo di Romagna, durante il lockdown, un musicista, il cantante dei Ponzio Pilates, per la precisione, è stato multato perché è andato a prendere gli strumenti e i carabinieri gli hanno detto che fare il musicista è un hobby e non un lavoro. Quante volte ti sei trovato a dover spiegare alle persone che tu lavori? Ma sempre, è successo anche a me durante il lockdown. Praticamente facevamo noi adesso con Croz lavoriamo a distanza e praticamente il maestro Belfiore ci manda nel computer un click e ci manda una base di pianoforte, ti inviano una partitura e tu da casa devi registrare la tua parte, rinviarla e poi verrà fatto il mixaggio, ti devi fare il video, lo devi spedire. E io ho uno studio che non è nel mio comune, è un piccolo studio di registrazione, anzi consiglierei a tutti i giovani musicisti che vogliono fare questo di lavoro di attrezzarsi, perché il lockdown e il Covid hanno costretto centinaia di musicisti a doversi attrezzare per la registrazione digitale della musica. Insomma, stavo andando in studio, mi hanno fermato e hanno detto no, lei non può andare in studio perché qui la musica è un'attività ricreativa. Guardi, io faccio il lavoro. Lei la guarda la TV ogni tanto, lì dietro, non vede che c'è della gente che suona, che fa delle cose? Insomma. No, ma non è lavoro, quello non è lavoro. No, cioè, in realtà, però tutti la usano, è lì il dramma, cioè tutti la usano, perché io sono sicura che anche l'autopattuglia ogni tanto una giratina sulla musica la ce l'ha. No, infatti hai toccato un punto secondo me fondamentale della musica, tutti la usano e per questo motivo una delle cose, uno dei tanti lati bellissimi della musica è che nella musica c'è spazio per tutti, non solo per i virtuosi, non solo per i professionisti della scala, ma anche per gente che lo fa per passione, cioè c'è posto per tutti. Per esempio, ho fatto per anni sigle, sottofondi per le radio, i famosi stacchetti, quelle cose là. Quindi c'è spazio per tutti. Il problema è che in questo periodo questo spazio si è ristretto in maniera esponenziale. Non ci sono più manifestazioni dal vivo, sempre meno. Io quest'estate dovevo fare una piccola tournée con Joel & Dix che ovviamente è saltata, però dobbiamo bisognerebbe far capire alle persone che cosa succederebbe se la musica non ci fosse, perché è una di quelle cose che diamo per scontato, no? C'è sempre stato, sì, è la musica, è quel sottofondo, e te hai usato proprio la parola sottofondo, ma se uno provasse, per qualche tempo ho vissuto con una persona che detestava la musica classica e ho passato, non potevo ascoltare la musica classica quando c'era lui, ho passato 4 mesi più brutti della mia vita. Quindi ecco, cosa succederebbe se la musica non ci fosse? Ma no, guarda, è semplicissimo, basta prendere un film, la scena madre del film, levagli l'audio, tu prendi Titanic, prendi un bel film, a un certo punto la scena loro dove sono sulla prua della nave, levaci la musica e guardati la scena senza la musica. Guarda un film senza le musiche di Morricone, hai elevato il 50% del lato emotivo di quello che stai guardando, di quello che stai vivendo. È fondamentale nella vita di tutti i giorni. Cioè, io ho un bimbo di 8 anni che canta in continuazione ed è meraviglioso. Cioè, la musica non puoi toglierla dalla vita di tutti i giorni. Sì. Non puoi. Io ho detto una cosa bruttissima, fino adesso che mi faccio l'atto di come si chiama? Di pentimento, insomma, ho detto tutti la usano. È proprio il verbo usare che è sbagliato in questo contesto, perché non va. La vivono, la vivono, consapevolmente o anche inconsapevolmente, ce l'hai ovunque. Vai al supermercato e c'è la musica in sottofondo. Quello è un altro lavoro pazzesco, fare le musiche per i supermercati, ho amici che lo fanno, c'è gente che fa le musiche per gli ascensori, c'è gente che fa, ma non sto scherzando, c'è gente che ha fatto la fortuna con la musica d'ascensore, i sassofonisti americani che hanno venduto decine di migliaia, centinaia di migliaia di dischi perché fanno quella musica che in ascensore non disturba. Savino, ci dobbiamo salutare, però grazie per la musica degli ascensori, non ci avevo mai pensato. Savino Cesari, vabbè, chitarrista, grande musicista, ci fai sempre piacere quando vorrai tornare a trovarci telefonicamente, per carità. Marco Malvaldi, ci ritroviamo la settimana prossima, grazie anche a te per questa bella domenica trascorsa insieme. In redazione Edoardo Lavezzari e Michele Michelazzo l'autore, oggi Miriam Lucchetti in assistenza, Andrea Roccabella in regia, da Laura Bettini, buon proseguimento, alla prossima. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.